Buongiorno, dottor Pardo, dottor Cinta, grazie di esistere. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. A chi se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Lewandowski è una finta, Xabi Alonso, prova lui, rete, rete, trova un marco, Xabi Alonso, 1-0 Bayern Monaco. Ora la ripartenza, attenzione, Torres e Griezmann, tocco per lui, Griezmann tutto regolare, tutto solo Griezmann, rete, rete credibile, contropiede micidiale, Griezmann non ha sbagliato, 1-1. Griezmann non ha sbagliato, 1-1. Alaba, ball cross lungo verso Vidal che schiaccia Lewandowski, rete, rete. Lewandowski, tutto riaperto adesso. Tutto riaperto adesso. A chi se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Abbiamo fallito il rigore, abbiamo sostenuto ancora 8 minuti più 5 di sconto e credo che quello è un po' l'immagine dell'Atletico di Madrid, no? Molto lavoro, molta sofferenza, molto impeto e sicuramente un passo importante perché abbiamo giocato in queste due eliminatoria contra due de quei tre migliori del mondo e credo che nel compito generale nella partita del Calderón tanto con il Barcellona come con il Bayern abbiamo fatto bene e abbiamo sofferto molto in campo de loro, quello è chiaro. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Io sento il calcio in questa maniera e fino all'ultimo giorno che allenerò sarò così, vincerò o perderò come tutti, tutti aspettano che devo vincere tre ogni anno il tripletto, ogni anno il campione, non sono così bravo per questo, insomma. Io ci provo e poi a volte ci riesce, a volte no. Stavo controllando i messaggi sia quelli normali, messaggi sms 349-238-6666 che vale anche per i WhatsApp, ma da nessuna delle due parti è ancora comparsa, ma come questa canzone sulla radio di Confindustria, sì. Ebbene sì, per la terza volta credo. E d'altra parte, cosa ci volete fare se la classe operaia è andata in paradiso, prima con l'Ester e poi subito dopo con l'Atletico Madrid? Giovanni Capuano qui con me. Dai, ciao. Facciamo il dibattito filosofico. Dibattito ha vinto filosofico. La squadra migliore o la squadra peggiore? La squadra peggiore è la più debole delle due. Ma io credo che invece l'Atletico Madrid abbia meritato la qualificazione alla finale sui 180 minuti sicuramente, ma anche ieri sera per mille motivi. Poi magari parliamo anche di Guardiola. Sì, poi parliamo anche di Guardiola che ha detto: lascio senza rimpianti, Ancelotti farà meglio. In Europa non difficile, anche perché, insomma, non difficile. Con la squadra che ha tre semifinali in tre anni, tutte e tre perse con squadre spagnole, Real, Barcellona e Atletico. Nei primi due casi, chi ha eliminato il Bayern ha poi vinto la Champions. Tra l'altro, nei primi due casi perse male. Perché non è tanto malissimo il tema che lui è arrivato in semifinale. Lui prese 5 gol in 2 partite dal Real Madrid. 2 anni fa prese una lezione di calcio dal Barcellona l'anno scorso. Secondo me ha preso una lezione di calcio anche questa volta dall'Atletico Madrid e da Simeone. All'andata sicuramente ne abbiamo parlato, ma anche al ritorno, se tu sei 1-0 avanti e hai la partita e pensi di avere la partita in mano, cosa serve prendere un contropiede di 50 metri? Ah no, questo di sicuro, c'è anche da dire che il Bayern ha giocato benissimo per 50 minuti a ritmo molto intenso. Poi la storia è cambiata e probabilmente è cambiata anche nella testa del Bayern su quel rigore sbagliato da Müller. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Siamo qui, stiamo facendo una tertuia. Sì. Un pranzo di chiacchiere di calcio con il dottor Ricci. Che poi sentiamo. Cosa vi state raccontando? Con una serie di colleghi spagnoli, cileni, argentini, il professor Vernazza della Gazzetta. Cosa ci stiamo raccontando? Aspetta un attimo. Aspetta, c'è un dibattito su una che cosa, Barcellona, Real Madrid-Roma, l'8 marzo, Eric, era Gini Ferrari che non si ricordava esattamente la data di Real Madrid-Roma. 2-0, 43 palle gol fallite da Dzeko e ha vinto il Real Madrid. No, si parla, l'argomento è sempre quello, l'argomento è sempre quello, la Champions, ovviamente, e non ci sono dubbi. Io ti dico la verità, l'ho vista, è chiaro che il Bayern è più forte come somma dei giochi. Ieri a un certo punto Sacchi ha detto, non mi ricordo chi aveva detto, la squadra più forte del mondo, la squadra più forte d'Europa, e la squadra più forte non ha vinto, e Sacchi ha corretto dicendo, no, è la squadra con i giocatori più forti. Questa è un po', insomma, è la sintesi delle due partite, no, della Bayern. È curiosa anche la posizione del professor Arrigo, perché, perché squadre come il Leicester di Ranieri e il ormai movimento culturale e filosofico l'Atletico Madrid di Simeone, che gli sta molto simpatico, che gli piace eccetera, ma non è esattamente il trionfo del calcio sacchiano. No, cioè, però posso dire una cosa, Sacchi oltre ad essere stato un, devo parlare per lui, oltre ad essere stato uno dei padri, dei maestri, dei guru del calcio, è prima di tutto una persona intelligente, quindi una persona che conosce benissimo la differenza per esempio fra una squadra molto organizzata e una squadra meno organizzata. Alcuni difetti di fabbrica di questo Bayern sono venuti fuori in queste partite, secondo me, in maniera abbastanza chiara, abbastanza precisa. In questa Champions il Bayern non è stato straripante. No, per niente. Non ha mai giocato per 90 minuti con la stessa intensità. Poi alcune cose, è chiaro che, per dirti una cosa che in pochi fanno notare, che è il movimento quasi l'automatismo, quando perde il pallone di andare subito a recuperarlo, del guardiolismo, anche ieri nei primi 50 minuti si è visto. Sì, è chiaro, sì, che c'hai una condizione fisica mostruosa, quella roba lì è devastante. Quella roba lì la fai per 90, invece, anziché per un tempo. Era a farla per 90, e il Bayern non l'ha mai fatta per 90. No, ricordiamo Torino, ricordiamo anche la partita con la Juventus. Per quindi me il verdetto di ieri sera... vi chiedo una cosa, Pierluigi, secca... Aspetta, vi chiedo una cosa, la chiedo anche agli ascoltatori, a te a Capuano, secca. Questa edizione del Bayern Monaco è il fallimento di Guardiola? Guarda, no, cioè, saremmo dei pazzi a dirlo, però è un dato di fatto che lui con il suo tiki-taka, con davanti poi Messi che garantiva accelerazioni, fantasie, gol e tutto, ha vinto, tenendo il tiki-taka, pur cambiandolo, ma tenendo la stessa filosofia, senza più quel fuoriclasse lì, alla fine ha fatto tre semifinali. Per carità, non consideriamo la Bundesliga l'avrebbe vinta chiunque in quella condizione, anche noi, e secondo me non è solo una questione di condizione fisica, cioè noi non possiamo dire che a marzo il Bayern è andato sotto con la Juve a lungo per una questione di condizione fisica. No, però non riescono a reggere quel ritmo, quel pressing che Guardiola ci ha abituato a... No, ma poi l'antidoto ma è il fallimento di Guardiola, Pier, così poi apriamo i giochi su questo punto. Se vuoi un titolo ti dico sì, che il fallimento di Guardiola, ma lo è perché ci sono due campionati, sono due squadre che sono il Bayern e il Paris Saint-Germain, che sono due squadre che dominano i loro campionati quasi per decreto ministeriale, e quindi è chiaro che si giocano tutta la loro vita nella Champions League. Se i Champions decollano nel caso del Paris Saint-Germain e atterrano con un trofeo nel caso del Bayern, che chiaramente è più avanti come storia, tradizione e percorso di crescita, fanno il loro dovere. Se non lo fanno per 3 anni consecutivi e perdono in semifinale, oltretutto stavolta di misura, altre volte come nel caso del Real Madrid di Ancelotti in maniera molto netta, beh, insomma, sono 3 anni alimentari, no, però insomma ci mancava pure che il Bayern non vincesse la Bundesliga, mi viene da dirti, no? Allora ci fermiamo per il traffico e siete tutti invitati, 800 24 00 24, numero verde, vi aspettiamo. Tutti convocati. Convocati. Io sono molto contento per la nostra gente, credo che per il tifoso dell'Atletico de Madrid tornare a una finale dopo 3 anni, 2 volte è bellissimo, però ci manca ancora qualcosa in più, come si dice, non alcanza con arrivare soltanto alla finale. Vince la fare la Coppa San Siro, no? Nella sua San Siro. È chiaro. soddisfazione all'Atletico Madrid per la finale. Abbiamo perso, quello che perde non c'è una ragione, abbiamo provato la nostra maniera che abbiamo provato 3 anni, ci siamo arrivati fino qua, mi auguro che il prossimo allenatore Carlo c'è la capacità di portare questa squadra a un livello, a una stagione più alta, ma felici di quello che abbiamo fatto e di come l'abbiamo fatto. Ragazzi, lo so che a qualcuno verranno i capelli dritti per le nostre scelte musicali di oggi, ma la radio di Confindustria, ripeto, ma che possiamo farci se El Pueblo y Peones vanno a marciare verso trionfi indicibili dall'Inghilterra fino a Milano. Si è aggiunta la compagnia Filippo Maria Ricci, che commensale di Pardo peraltro saranno lì a un metro. Buon pomeriggio. Ciao, e poi comunque apritemi, devo dire una cosa. Apritemi, che ho goduto come un Ricci, perché ho sentito come un Ricci, perché ho sentito Ricci cazziato da qualcuno, è stato De Luca per la scarsa qualità del telefono, e lì ho rivisto tutta la mia vita, ho rivisto anche le telefonate e ti dicono: hai l'auricolare? No. Sei in viva voce? No. Hai la voce da bocca vicino al microfono? Sì. C'è qualcuno nei dintorni? Sì, ma non lo possiamo sopprimere perché siamo uomini di pace. Cioè, ho visto tutta una serie di cose veramente del bello. Torniamo agli Intillimani, che qua accanto c'è Javier, sì, Cáceres, che è un grande corrispondente della Süddeutsche Zeitung. Sì. Che è nato in Cile, quindi forse la canzone era dedicata a lui, che era a tavola con noi, no? Dedicata anche a lui, naturalmente, dedicata a Simeone, dedicata a Ranieri, all'Ester. C'è Ciro Ferrara che vuole intervenire, eh? Ah. C'è Ciro Ferrara che si sente invidioso in questa tavolata. Ciro, parla con Radio 24, la radio di Confindustria, non porti in mezzo. No, dedicata a Teosi. Davanti c'è un piatto di Giulletton. Non è ancora arrivato Giulletton, poi Giulletton potrebbe essere travisato, diciamolo che è il biletto. Dai, dici cosa pensi del ciolismo, in un minuto te la cavi e poi ti meriti questo tipo per il ciolo. A patto che non arrivi il Real Madrid in finale, perché c'è il mio amico Zizou. E quindi sono felicissimo, ma mi sentono? Sì, che ti sentiamo, Ciro. Sì, certo. Ciao, scusa, ciao. Allora, sì, pensavo che mi stesse per sentire. No, io sono un fan del ciolo e quindi sono felicissimo che sia in finale. E sono molto combattuto nel caso dovesse arrivare il Real Madrid, perché il Real Madrid è allenato da Zizou, quindi non posso tifare contro Zizou. Detto questo, mi auguro, insomma, che il ciolo possa ricevere questa grandissima soddisfazione. Quindi ti piace il ciolismo, insomma? Sì, assolutamente. Insomma, adesso va di moda, quindi, ma è un qualcosa che ha caratterizzato anche tante altre squadre che con meno qualità, però con caratteristiche ben precise, riescono ad ottenere dei grandi risultati. Quindi complimenti per il lavoro che ha fatto. Poi ho avuto modo già di vedere delle partite di Champions in allo stadio, al Calderon, ed è una bolgia, bellissimo, un ambiente bellissimo. Adesso vi lascio perché è arrivato il filetton. Adesso vi lascio. Ciao, Ciro. Ho una domanda definitiva per Ciro Ferrara, che me la chiede De Luca. Cosa manca al Napoli? Il Napoli oggi è un po' come l'Atletico Madrid, no? Voglio dire, è l'alta borghesia del calcio italiano. Cosa manca al Napoli per sviluppare un progetto e per diventare l'Atletico Madrid? Una seria. Anche un bicchiere di vino, siamo ubriachi. Ma non è vero. Mezzo bicchiere. Siamo subito a tavola adesso. Esatto, tra l'altro, quindi voglio dire. Comunque, la domanda è interessante. Vabbè, rispondo io. Se la canti e te la suoni. Penso che sia un po' il problema del calcio italiano. Aspetta, vuole cantare? Non ritorni mai più. Non siamo ubriachi, lo voglio dire. Guardo, siamo ubriachi. Da 10 minuti? Cioè, voglio dire. Anche volendo. No, io volevo chiedere, no, posso estirpare questa risposta a Filippo Maria Ricci, così andiamo avanti nel nostro referendum. Al di là del ciolismo e della immunità diplomatica di cui gode nella patria del bel gioco che è la Spagna, immunità assoluta, è questo del Bayern il fallimento di Pep Guardiola e del guardiolismo? No, io dico di no. Siamo 2-2, io e Pardo diciamo di sì, tu e Capuano dite di no. No, io dico di no perché comunque Non è così semplice. Secondo me Guardiola paga delle colpe primordiali, ovvero il porsi di fronte alla vita con eccessiva filosofia, come diceva Ibra. E quindi è chiaro che quando perdi, poi dopo ti arriva addosso di tutto. Qua in Spagna e anche in Germania è stato letteralmente crocifisso da chi lo aspettava al varco, perché se comunque tu ti presenti come portatore di valori anche del catalanismo, dell'indipendentismo e tanta altra filosofia di calcio e non, è chiaro che quando perdi tutto assume un altro significato. Questo una parte. E dopo, è chiaro, non ha vinto la Champions, ha fatto tre semifinali e le ha perse tutte e tre. Esatto, con tre squadre spagnole, una nemesi importantissima. E tre semifinali che lui ha citato come parziale successo, come fece Mourinho a suo tempo qui a Real Madrid, altra nemesi importante. Sì, c'è una differenza Mourinho. Però Filippo sì, c'è una più di una differenza. No, per quello io difendo, dico, lui comunque tu stai facendo cronaca. La partita di ieri, è un trionfo per il Bayern. Gli è mancato solo il gol. Più di così non potevano fare, questo va detto assolutamente. Insomma, per quello dico, non è un fracasso. Filippo, più di così non potevano fare, però intanto potevano fare quel secondo gol. E poi, ripeto, prendere un gol in contropiede a 50 metri con una qualificazione completamente aperta. E anche, anzi, che tu hai messo in discesa, sei 1-0 in casa tua, stai creando occasioni. Cioè, secondo me quello è un errore grave. È un errore tecnico. Ma quella che conta è poi come la subisci. Una palla gol, però ci sta in una partita di 90 minuti contro una squadra che comunque si sta giocando il passaggio alla finale di Champions League. Non potete adesso non concedere nemmeno una palla gol. Mi sembra esagerato, state chiedendo troppo. Secondo me, non è il tema di non concedere una palla gol. Ripeto, se Zeman avesse preso un contropiede 50 metri, campo vuoto, perché è stato un contropiede semplice, nemmeno si è dovuto inventare chissà che cosa l'Atletico Madrid. Ha avuto 30 metri per pensare e per sbagliare quel gol, voglio dire, non era così. No, però se quello è il piano tattico del Bayern, secondo me c'è un problema e difatti il problema si è visto. Non puoi giudicare tutto il piano tattico su una palla sola. Però l'Atletico è la squadra del pragmatismo, una squadra che colpisce dalla partita all'andata, parte forte e poi aspetta, il portino tiene, ieri prende il gol. Ieri è tenuto male. Sì, però Pier, scusa, ribalto la domanda, siccome arrivano anche tanti messaggi, il bus davanti alla porta, quelle cose lì. Secondo me sui 180 minuti è così sballata la qualificazione dell'Atletico Madrid? Secondo me no, perché non è stato due azioni e 178 minuti di sofferenza. Un momento di lucidità, forse l'ultimo della giornata, quindi lo provo a sfruttarlo. Nei 180 minuti delle due partite, se tu guardi le prevalenze, è chiaro che il Bayern ha condotto e a tratti dominato per 130-140 minuti su 180. Però il calcio non è il basket. Nel calcio tu hai dei momenti in cui puoi aspettare, puoi concedere il pallino del gioco agli altri e puoi farlo però con grande dignità e portare a casa la pelle. Non è la pallacanestro, non è uno sport dove ci sono 100 segnature in una partita, è uno sport dove gli episodi contano. E l'Atletico Madrid ha fatto questo, ha fatto un blitz iniziale della partita d'andata, poi ha aspettato, si è difeso con ordine, ha portato a casa il risultato, ieri ha ballato, poi ha fatto 20 minuti molto buoni, secondo me, quelli dell'inizio del secondo tempo, e poi ha portato a casa il risultato con un pizzico di fortuna. Certamente se avesse passato il turno il Bayern non sarebbe stato un furto, tutt'altro, però sinceramente... per me non è un furto. No, ma non lo è. Non si può dire che è la morte del guardiolismo, dai. Non si può dire che è la morte del guardiolismo. Ma non è la morte del guardiolismo. Quello che stavo provando a dire prima è che quando tu vai a allenare il Bayern, e questo vale pure per Ancelotti, o il Paris Saint-Germain, qui intanto c'è gente che urla, ma è tutto sotto controllo. Quando vai a allenare il Bayern o il Paris Saint-Germain, il campionato non è un test. Quindi ti giochi tutto. È come se la stagione diventasse simile a quella di un commissario tecnico che si gioca tutto in un europeo o in un mondiale. Giochi tutto in poche partite, e se queste partite però le sbagli, è fatale, alla fine è un fallimento. È fatale, no? Cioè per queste squadre è così. Bayern ha vinto l'ultima Champions prima che arrivasse Guardiola, poi è arrivato Guardiola, il guru, e in tre anni si è fermato in semifinale e due volte su tre ha ceduto in maniera molto forte. E per perché questo... come è uscito contro Real Madrid e contro Barcellona le ha prese e basta. Appunto. Ieri invece, cioè ieri meritava il passaggio però del turno. Però se confrontiamo i fatturati, se confrontiamo i budget, non dovrebbe esserci partita. Oh, poi, no, se, no, poi, no, se vuoi, no, poi se vuoi vi svelo una cosa. Poi se vuoi vi svelo una cosa. Andiamo in campo più ampio. Posso dirla? È il quarto anno di fila questo, in cui in finale di Champions League va una squadra molto lontana dal podio dei fatturati. Borussia Dortmund 11esimo, Atletico Madrid 20esimo nel primo caso, Juventus decima e Atletico Madrid ora 15esimo della famosa classifica Deloitte, sì, quella che mette in fila la ricchezza delle squadre europee. Guarda caso poi hanno perso tutte. Ma secondo me questo vuol dire poco, vuol dire nulla, perché poi si decide episodi. Però quella roba lì per cui vale soltanto quanti soldi hai in tasca per poter arrivare in fondo alla Champions, io credo che sia un po' in un torneo aleatorio come la Champions League contano anche molti altri fattori. Io saluto Pierluigi Pardo e Filippo Maria Ricci, li facciamo mangiare. Siamo andati a parlare tutti e due. No, perché la Champions, chiaramente, il calcio è liquido, la Champions è areiforme. La Champions è come gli europei, come i mondiali, si decide su un episodio. Esatto. Ieri poteva passare il Bayern, non rubava nulla, è ovvio. Quindi se tu non hai un campionato che è probante, in Spagna vincere la Liga è qualcosa di importante, è qualcosa che è decisivo. In Italia adesso ovviamente ci sarà la dittatura della Juve, ma complessivamente vincere lo scudetto è qualcosa di molto importante per il Bayern, o in Inghilterra pure per il Bayern e Paris Saint Germain. Invece il campionato è una formalità, la sproporzione è talmente grossa, è una formalità, che poi alla fine, è una formalità. Questo vabbè, arrivano un Spreton, vai. Dai. Buon appetito. Io voglio dire una cosa finale, una cosa in napoletana per De Luca. Aspetta, faccio deglutire, aspetta, De Luca, aspetta che ti dice una cosa in napoletana. De Luca è un grande redattore, simpatico, napoletano, un po' svizzero come mentalità, però gli vogliamo bene. Ciao De Luca, volevo dire che questo ciulottone è fantastico. Ti fa sapere che anche la mensa qui non è male. Invito a Madrid. Vabbè, De Luca, ti aspetto. Arriviamo. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Pierluigi Pardo, Filippo Maria Ricci, Ciro Ferrara, allegra brigata madrilena, allegra, molto allegra. Ci fermiamo per la borsa, torniamo, poi ci sono Giuseppe Adriano già in linea, 800 24 00 24, numero verde. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Banca Mediolanum, costruite intorno a te, vi presenta Si ricomincia. Tutti convocati. Dunque torniamo alla compagnia, si è aggiunto con mio grande piacere Marco Berinazzo del Sole 24 Ore, che adesso ci racconta un po' di cose. Ciao, eccomi, Marco. Buon pomeriggio. C'è anche ovviamente Giovanni Capuano che è rimasto qui con me. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senti, io volevo dire in merito a quello che diceva Pardo prima, che il Bayern e il Paris Saint Germain si giocano tutto sulla Champions, diciamo, perché i loro campionati sono un po' scadenti. Io penso che anche per la Juve lo stesso discorso, perché in Italia negli ultimi 5 anni ho visto proprio il nulla contro la Juve, tranne il Milan il primo anno, poi per il resto proprio poca roba. Io mi ricordo l'Inter di Mourinho, si diceva che doveva a tutti i costi vincere la Champions dopo che dominava per 4-5 anni, e invece della Juve non si dice questo, si dice, anzi ho sentito che il prossimo anno l'obiettivo sarà il sesto scudetto. Non è esattamente così, Giuseppe, anche alla Juventus sanno benissimo e dicono spesso come l'obiettivo vero sia la grande Europa. Ma d'altra parte l'anno scorso sono arrivati ad un passo, quest'anno sono ancora, penso siano lì a succhiare un limone molto acido, molto acerbo, perché visto come è andata la competizione potevano essere lì anche quest'anno. Non sono dal punto di vista dell'organico a livello di quelli che ieri sera sono usciti, di quelli che magari stasera escono, cioè il Real Madrid. Però sono competitivi in Europa e l'obiettivo è vincere in Europa. Poi questo lo dicono tutti e gli juventini lo sanno perfettamente. Adriano, ciao, grazie. Ciao della comunicazione. Grazie a te, dimmi. Niente, volevo parlare di Guardiola, che ho fatto una riflessione molto spiccia. Questo fenomeno dell'allenatore, io qua, io là, ho capito, ha allenato fino adesso, non è che ha allenato i Barba Papà fino adesso, ha allenato due squadre della Madonna, e citando Mourinho, sì, al mondo all'epoca c'erano 5 attaccanti più forti del mondo: Messi, Cristiano Ronaldo, Drogba, Eto'o e Ibrahimovic. Il signorino ne ha allenati 3 di questi grandi campioni. Certo, ma cioè, senza, beh, adesso possiamo, possiamo mettere anche Lewandowski. Lui non ha dimostrato ancora niente. Chi, Guardiola? Beh, ha dimostrato, beh, che è un buon allenatore. No, beh, niente, no. Simeone ha dimostrato che con 4 scherpazzoni, perché sono degli scherpazzoni, dai, adesso non è che sono dei fenomeni tutti, santa Madonna. Questo... si fa 2 finali, ma sono filosofie diverse. Scarpazzoni, scarpazzoni contro superstar, Adriano, è questione di organizzazione. Il catenaccio 2.0, il ciolismo, è una questione di filosofia, insomma. È chiaro che Guardiola ha allenato grandi squadre, così come Mourinho ha allenato in tutta la sua carriera. E adesso qualche scarpazzone va a allenarlo anche lui, perché chi? Non è che al Manchester abbia soltanto qualità immensa Guardiola. Qualche scarpazzone, vabbè, ma lui ovviamente va lì e si va a prendere quelli che sono gli scarpazzoni via e prende quegli altri che, com'è che li ha chiamati? e prende non in barba papà, ma quelli buoni. Barba papà e scarpazzoni numero uno in campo oggi, il signor Adriano. Mi ripeschi per favore una di quelle canzoni che un po' proletari, Me la ripeschi adesso? A chi se queda la clara, la intrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Innanzitutto, noi puoi dirlo, ti piace, eh? Beh, devo dire che ciolismo e ranierismo, bravo, sono ormai, bravo, diventate quasi, sono le nuove categorie dello spirito del football sono moderno. Le nuove categorie dello spirito del football moderno, esatto. E due bellissime storie ci fanno amare il calcio. Per comprenderle appieno, però non per sminuirle, vanno anche come dire, inquadrate nei contesti economici in cui sono nate. Proprio perché magari ricreando quei contesti si può sperare che ci siano delle testimonianze di queste due categorie dello spirito anche magari in Italia prima o poi. Sì, allora raccontami del Leicester, il presente e il futuro del Leicester. Guarda, Leicester è indubbiamente una squadra che con un fatturato basso è riuscita a sconfiggere squadre che hanno un fatturato questo certo, molto basso, più, quanto? Più forte. Però il Leicester è anche una squadra che è riuscita, per esempio, tra il 2014 e il 2015, arrivando in Premier, a passare da 40 milioni di fatturato a 135 milioni di euro, e viaggerà l'anno prossimo verso i 200 milioni di euro. Quindi, diciamo, già quest'anno era paragonabile in termini di forza di fatturato al Napoli, l'anno prossimo ha una forza pari in termini di fatturato al Milan o all'Inter, tanto per fare delle proporzioni, con un costo della rosa che viaggia tra gli 80 e 90 milioni di euro. Tipo quella del? Non so, tipo quella del Napoli. Non, parliamo dei 6 milioni dell'Empoli. Certo. Tanto per intenderci. Però la cosa importante da spiegare è che il Leicester nasce in un movimento calcistico, quello inglese appunto, che fin dalla creazione della Premier League dal 1992 ha avuto come obiettivo, se vuoi un po' sulla scia degli sport professionistici americani, quello di elevare la competitività del sistema e quindi la capacità di tutte le squadre, o perlomeno del maggior numero di squadre, in termini di forza competitiva. E l'esempio, il perno di tutto questo discorso è dato dai criteri con cui si ripartiscono i diritti TV. Certo, una torta che sarà dalla prossima stagione di 3 miliardi e 6, per la quale, diciamo, il rapporto tra la prima e l'ultima è di 1 a 1 e mezzo, sostanzialmente. La squadra che prende di più non può prendere una volta e mezza quello che prende l'ultimo. Sì. In Italia questo rapporto è 4 a 1. Sì. E sostanzialmente i soldi vengono divisi in base a due criteri. Uno democratico, 50% uguale, sì, per tutti. Diritti TV internazionali, parliamo di 1,4 miliardi. I nostri diritti TV, tutto, sono 1 miliardo e 2. Vengono divisi in parte uguali fra 20 club. L'altro 50% dei diritti TV nazionali vengono divisi sulla base di criteri assolutamente meritocratici, 25% in base all'ultima classifica, sì, l'altro 25% in base al numero di volte in cui una partita di quella squadra è trasmessa fino a un massimo di 25. Quindi è chiaro che più giochi bene, più fai risultato, più volte dalla tua partita viene data la squadra trasmessa, più soldi, hai. Quindi meritocrazia e democrazia hanno fatto sì che la Premier è diventata quel meraviglioso giocattolo che è, e un giocattolo è un torneo in cui possono vincere anche squadre come il Leicester. Sul foglio di oggi stava scritto, no, l'ho letto su internet, di questa proprietà indonesiana dell'Leicester, che comunque da quando è stata promossa ha dovuto aggirare le regole del fair play finanziario. Sì, c'è questo problema. Ha fatto il giochino che ha fatto un po' il Paris Saint-Germain, no? Con lo sponsor amico o forse parente. Questo problema che è sorto appunto, in realtà quando il Leicester era in Champions, quindi nella Serie B inglese, lì c'erano dei paletti molto stringenti sul rapporto tra il fatturato e gli stipendi, la percentuale di stipendi che potevi pagare, ed effettivamente in Inghilterra i tabloidi inglesi hanno sollevato il problema, e vedremo se ci saranno conseguenze, che sarà qualche multa, non è che sarà squalificato il Leicester e questa favola la mettono perché si fa un ragionamento secondo cui che non è neanche sbagliato. Il fair play finanziario alla fine cristallizza in qualche modo la situazione esistente, facendo diventare ricchi sempre più ricchi e impedendo ai nuovi ricchi o quelli che comunque portano soldi di spendere. E Carlo, questo discorso ci porta esattamente a ragionare sulla favola, l'altra favola, quella del ciolismo dell'Atletico Madrid. Lo facciamo subito dopo il traffico, facciamo così. Però Simeone ha dimostrato che con 4 scherpazzoni, perché sono degli scherpazzoni, dai, adesso non è che sono dei fenomeni tutti, santa madonna. Tutti convocati. Tutti convocati. Solo immaginare i messaggi che mi arrivano, ma è la colonna sonora del momento. Da qui al 28 maggio. Poi vediamo come va. No, però c'è un paradosso, uscendo un attimo dai numeri. Il paradosso è che dovesse entrarci anche il Real Madrid nella finale di Milano. Io non so se si può dire che l'Atletico entra da sfavorito, perché poi, a parte la finale di Lisbona, credo che negli ultimi 3-4 anni l'Atletico abbia praticamente sempre battuto il Real Madrid, qualunque allenatore sedesse sulla panca del Real Madrid, e questo avrà un significato, come no. Cioè, vorrà pur dire qualcosa. Sono due squadre antitetiche, cioè l'una è il trionfo sì, dell'organizzazione. Ma non necessariamente una, cioè l'Atletico fatta di scarpazzoni e l'altra il Real Madrid fatta di gente buona. Cioè, il paradosso è che l'Atletico in questa finale, forse qualunque dei due esca oggi tra Real e Manchester, non entra da sfavorito. No. Soprattutto col City. Sì, abbiamo parlato quindi dell'Ester e dicevamo fair play finanziario, che puoi appunto ingessarti nella tua situazione, seppellirti nel cemento, non ti puoi muovere, hai soldi da spendere e da immettere nel sistema, non lo puoi fare perché hai le mani legate. Diciamo che oggi esiste la possibilità di fare un accordo preventivo con la UEFA, questo per favorire proprio i nuovi investitori, non l'ha ancora fatto nessuno, è in vigore dall'anno scorso questa possibilità, cioè vai a Nyon e dici guardate signori, io ho soldi da spendere, li voglio mettere 200 milioni, non mi atterrò scrupolosamente alle regole, però da qui a 5 anni ho questo piano, e se la UEFA lo accetta, ci ha provato il Milan, è andato lì Barbara Berlusconi e Gandini qualche mese fa, in queste settimane l'UEFA dovrebbe rispondere, però insomma immagino che aspettino anche loro di capire cosa accade. Cioè, se devono andare a Pechino oppure o in via Aldo Rossi. Detto questo, anche il miracolo, e ripeto ancora una volta, non per sminuire quello che è l'impresa sportiva, chiaramente facciamo tutti il tifo per le squadre apparentemente non favorite, tutti. Al di là di quello che diceva. Mega tutti. Beh, penso che almeno qui siamo in tre. Io no. Ah, tu no? Beh, ecco, no. Allora siamo in due contro uno. No, l'Ester sì, Atletico Madrid a me non piace. Detto questo, però, bisogna anche capire, Carlo, in che contesto si è sviluppato l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid nel 2011 fatturava 100 milioni, quindi anche qui siamo sotto il Napoli, tanto per intenderci. Ora, 2015, fatturato 175 milioni più 30 milioni di plusvalenze, perché quello che ha saputo fare l'Atletico in questo periodo è comprare bene, ma soprattutto vendere meglio. Ma l'Atletico Madrid, che aveva nel 2011 200 milioni di debiti con il fisco, non avrebbe avuto, diciamo, alcuna possibilità di competere con il Real e Barcellona. Come ci è riuscito? Ci è riuscito grazie all'alleanza con i fondi di investimento e con Doyen in particolare. Sì, che però non, a questo punto è borderline dal punto di vista della legalità. In realtà è assolutamente vietato dal 1 maggio 2015. Sono ancora, diciamo, in essere i contratti che poi devono andare a chiudersi. Ma di fatto quel tipo di alleanza ha permesso all'Atletico Madrid, al Siviglia, al Porto, al Benfica, cioè a squadre medie, di poter avere in squadra nell'organico dei giocatori di qualità e di poter ambire a certi risultati per poi far cosa? Far crescere il fatturato per altre vie. Perfetto. I fondi sono stati vietati, troppo frettolosamente a mio avviso, perché hanno tanti rischi i fondi, riciclaggio, combin, ne possiamo elencare tantissimi. Mi rendo conto che è più complesso, ma forse una delle strade alternative al semplice divieto sarebbe stata la regolamentazione della presenza di questi fondi, alla luce di un principio di trasparenza. Beh, ma però adesso sono stati vietati e quindi diridin diridon, come direbbe Ranieri, che succede? Che succede? Che avremo sempre di più un nucleo di squadre forti che vinceranno nei singoli tornei, salvo alcune eccezioni che sempre ci possono essere. E poi i peones che rimarranno peones. I peones che resteranno tali. E si dovranno fare delle scelte. In Italia, per esempio, sta discutendo ora di come cambiare la norma sui diritti TV, incidendo su quel principio, quel parametro di soldi da distribuire diciamo in parti uguali, portandolo al 50%, incidendo per esempio sul bacino d'utenze, quindi non privilegiando la territorialità, quindi gli abitanti del comune, i tifosi. Con la quale conseguenza? Quella di togliere 10-20 milioni alla Juventus, darla alle altre squadre che magari sopravviveranno meglio, ma creando un danno alla Juventus in ottica europea. Quindi se non si ragiona in termini globali, cioè nel senso di allargare la torta, ma si fa la guerra a chi si prende lo spicchio più grande di una torta che sembra più piccola, non si va da nessuna parte. Il problema è non mettere cemento su questa spaccatura sempre più evidente a livello europeo. Il cemento c'è già. Basta scorrere l'albodoro dei singoli campionati. Germania, Francia, Italia. Questo è l'enorme problema. Però io credo che il modello inglese in Italia non sia replicabile, perché ce lo dice il recente passato. L'anno in cui entra in vigore la spartizione attuale dei diritti, la vendita collettiva, eccetera, l'Udinese, che guadagna parecchi più soldi rispetto alla stagione prima, in un'estate vende Sanchez, Zapata e un terzo giocatore che adesso non mi viene in mente, eppure ha i preliminari di Champions da fare. Cioè, il tema è: a me va anche bene ridistribuire al 50% all'inglese, a patto che in Italia, a parte i soliti 4-5, ci sia qualcun altro che poi fa calcio davvero e sul calcio investe. La verità è che il prodotto Italia vale miracolosamente 1,2 miliardi di diritti TV complessivamente, ma lo vale su quello che viene investito dalla famiglia Agnelli, dalla famiglia Della Valle, dal Napoli De Laurentiis, in parte dalle due milanesi, per quanto in questo momento stiano attraversando quel momento. La Roma fa un discorso diverso, a parte, ma comunque ha una certa dimensione e fa calcio, e gli altri, cioè se tu dai in mano più soldi all'Udinese, all'Atalanta, al Chievo, a tante altre realtà, cosa torna indietro dopo? Questo è l'altro domandone. Altrimenti tanto vale darlo alle 4-5 grandi. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie della convocazione, grazie, complimenti per il programma. Grazie. Ho sentito parlare oggi molto del presunto fallimento di Guardiola. Sì. Io invece volevo spostare un attimino l'attenzione sui meriti di Simeone, perché Simeone ha preso l'Atletico Madrid nel 2011. In 4 anni è riuscito a fare 2 finali di Champions, ha vinto una Supercoppa europea, ha vinto una Liga, ha vinto una Coppa del Re. Assoluto, Mauro, nessuno sminuisce i meriti. Ma perché questa squadra ha un imprint, ha uno spirito, come si diceva l'altro giorno con Paolo Condò, ha un software e un hardware. Su quell'hardware puoi cambiare i pezzi, ma riesce comunque a ricostruire la squadra. Il problema non è fare l'exploit isolato come ha fatto il Leicester. Il problema è costruire un ciclo con questo materiale. Quindi i meriti di Simeone, chi li vuole discutere? Poi può piacere o meno quel tipo di calcio, però come fai a discutere i meriti di Simeone? Noi su Guardiola si stava facendo un ragionamento più ampio, e cioè nel triennio al Bayern, con l'andamento che ha avuto, con il campionato che ha inesistente, ha fallito oppure no? Secondo me ha fallito perché al Bayern chiedi la Champions League, così come chiedi la Champions League al Real Madrid, al Barcellona. a questi grandi club, chiedi la Champions League. Un'ultima battuta, Marco, sul Milan, abbiamo un minuto. Guarda, che succede? Che succede? Bella domanda. Siamo perennemente in attesa di una decisione di Silvio Berlusconi, nel senso che si deve aprire questa trattativa in esclusiva. I presupposti, diciamo, su cui fare questa trattativa in esclusiva ci sono già da qualche giorno. Berlusconi ha chiesto un po' più di tempo e quindi siamo ancora in attesa di capire se darà il via libera a questa trattativa in esclusiva. Quindi è lui che deve prendere questa benedetta decisione. Siamo sempre purtroppo allo stesso punto da almeno una settimana. Una settimana? Sì, lo dicevo, da quando un qualche abbozzo di accordo c'è. Più di un anno. Diciamo, potremmo dire anche di più ragionando in questi termini, ma io mi tengo alla stretta attualità. Sì, la stretta attualità ci dice che più o meno avrebbe potuto dare il sì e far partire la trattativa in esclusiva da una settimana e non è così, e ha chiesto un po' più di tempo e quindi non resta che pazientare senza cercare di fare troppe fughe in avanti su nomi e sì, cordate, certo. Altro, perché si anche fa perché solo confusione. Se lui non decide, ok, vendo, ed è quella l'ultima parola, al Milan non succede niente. Grazie Marco Bellinazzo. A presto, grazie a voi. Giovanni, stiamo qui e dopo il GR torniamo. Questo fenomeno dell'allenatore, io qua, io là, ho capito, ha allenato fino adesso, non è che ha allenato i Barba Papà fino adesso. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. L'unica maniera per far sì che io lasciassi il calcio era una grande delusione. E quest'anno è stata per me una grande delusione. Fritti, Scampi e Chianti, Calamari, Lucca, sei per me numero uno. Cannoloni, Lucatoni, Pepperoni, Lucca, sei per me numero uno. Stand by for action. Parte il suo cross per Toni! La schiaccia Toni! 2-1! La doppietta di Luca Toni! Un esordio fantastico alla prima di campionato con la maglia del Verona! Sono contento di quello che ho fatto, sono contento di quello che ho dato, perché ho cercato sempre di dare il massimo sia sul campo che fuori dal campo. E quindi sinceramente mi piace anche l'idea che mi si riconosca oltre i meriti sportivi che parlano i gol, basta andare a vedere l'almanacco, uno vede presenze, gol, ha vinto, non ha vinto, ma mi piace anche l'idea che mi sia riconosciuto la cosa che comunque sia, ha dato dei belli insegnamenti e magari a dei bambini che iniziano a giocare a pallone, e queste sono le soddisfazioni quasi pari ai gol che ho fatto. E quindi non, nessun rimorso, nessun rimpianto, perché se ho avuto questa carriera vuol dire che mi meritassi questa carriera, e io la mia carriera mi guardo indietro e me la vedo fantastica. Once again. Three, four. Quindi come idea ti vedi più come dirigente che in una scrivania che dietro, che su una panchina, voglio dire? No, cioè, panchina più... sicuramente no, perché ho visto i miei ex compagni che invecchiano 5 anni alla volta, invece di uno invecchiano 5. E quindi secondo me, ti dico, questo magari è un mio pensiero adesso, poi magari inizierò un percorso che non mi piace, farò dell'altro, perché è tutto, sarà tutto nuovo per me. Cioè per me è una fase molto importante, delicata, perché io smetto con un lavoro che è stata la mia passione per 22 anni, quindi mi troverò a fare dell'altro, e questo altro io non l'ho mai fatto. Bravo Luca Toni, un applauso. Ho annunciato oggi, con le parole che avete sentito, di grande intelligenza, l'addio al calcio giocato dopo questa grande delusione. Quindi tu stai facendo il paragone, Toni capisce che è ora di lasciare e Totti lascia, invece no. Totti invece che resta aggrappato al fatto che in un mese ha regalato la Champions alla Roma, decisivo, 4 gol, un assist, ha portato 6 o 7 punti perfetto, da solo, poi Spalletti dirà, Szczęsny ha fatto una grande parata, vi manda a dire momento ideale per, lasciare. Mike Conn ha fatto un tackle, Giovanni, Pjanic ha battuto un calcio d'angolo, sì, tutto vero, ma perché devi metterli uno contro l'altro? No, ma io non lo sto mettendo nessuno contro nessuno. Ha ancora tre nessuno. Grandi attaccanti, numeri alla mano, e questa è una stagione particolare, sì, Toni sì. Si ritira, Di Natale che ha annunciato che chiude con l'Udinese e andrà a giocare da qualche parte l'ultimo pezzo di carriera, e Totti che secondo me, visto che continui ad andare su questo paragone, che fa benissimo perché ha misurato in campo che può ancora essere decisivo, ma te l'ha detto Toni all'inizio. Io avrei Toni mollato detto, dopo una delusione, sì, questa sì, è stata una delusione. E lui non è stata una delusione, ma non credo che la stagione di Totti sia stata qualcosa di diverso, almeno dal punto di vista personale, perché uno come Totti che viene trattato come l'ultimo dei panchinari, a me fa male al cuore e quindi mi auguro che decida di smettere. È chiaro che, l'ha detto Toni, è un momento estremamente difficile per un giocatore, difficilissimo, il momento più difficile dopo 22 anni in cui questo gioco, questo sport, questo lavoro è stato la mia vita. Adesso devo fare qualcosa di diverso, di completamente diverso, non so come sarà, non so cosa succederà, e questa è la grande paura di tutti quelli che devono dare l'addio al calcio, però prima o poi succede. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo chiedere se per voi avevo pensato una cosa sulla Champions, che perdendo 2-1 una squadra passa lo stesso. Sembra che sia avvantaggiata quella che gioca fuori casa nella giornata di ritorno. Secondo me, adesso non ricordo le vecchie partite degli ultimi anni. Solitamente si dice il contrario. Sì, di solito si dice il contrario. Però è anche vero non che non è sbagliato un ragionamento. È anche vero che teoricamente chi gioca fuori casa la partita di ritorno ha un doppio vantaggio, cioè perché conosce il risultato dell'andata, se gli serve o no fare quel gol fuori casa che vale doppio. E questo è un vantaggio, perché significa sapere come devi impostare la partita. E poi c'è anche chi sottolinea, non ha torto, che in caso di tempi supplementari ha in realtà mezz'ora in più di tempo per fare quel gol che vale doppio. Sì, sì. Perché gol fuori casa, soprattutto quando poi è una sfida equilibrata, e ad esempio una sfida che va ai supplementari è una sfida equilibrata per definizione, hai mezz'ora in più per fare quel gol. Infatti, secondo me questo rapporto si è un po' ribaltato nel corso degli anni. In precedenza, in effetti, chi giocava in casa la gara di ritorno era favorito. Adesso io sono convinto che non sia più tanto così, così come sono convinto che anche la prima 0-0 giocata in casa ti porti una certa situazione di vantaggio. Ma difatti oggi l'approccio di molti è questo: gioco in casa la prima, non prendo gol. Non prendo gol, è quello, esatto. E poi vado a giocarmi la seconda, esatto, pensando di dover farne almeno uno. Esatto. Andrea, buongiorno. Ciao Carlo, ciao Giovanni, grazie per la convocazione. A te. Volevo intervenire, diciamo che parte del mio intervento è già stato anticipato da un ascoltatore prima, ed era legato all'idea di fallimento della stagione del Bayern. Io non la penso così, perché se è quello il principio, allora anche la Juventus dovrebbe aver fatto una stagione fallimentare quest'anno, 5 anni che vince il campionato. Credo poi che il Bayern Monaco, quando ha vinto l'ultima Champions, avesse il fatturato di oggi della Juve, quindi non ci guarda, quando il Bayern Monaco ha vinto l'ultima Champions, anno 2012-2013, era sempre prendendo la famosa classifica Deloitte che mette in fila, era la quarta squadra d'Europa. Oggi la Juventus è nona. È entrata in questa stagione da nona. Quindi no, il termine di paragone non era lo stesso, e secondo me non lo è in generale, perché il Bayern di Monaco intorno a Guardiola ha costruito un progetto per dominare in Europa, al di là che arrivava dal triplete di Heynckes. Mentre ad esempio l'estate scorsa la Juve ha chiuso un ciclo, ne ha aperto un altro, e forse avevamo anche messo in conto di non essere immediatamente competitiva ai massimi livelli in Europa. Poi ha scoperto che strada facendo poteva crederci un po' di più. Se Evra avesse spazzato quel pallone, oggi staremmo raccontando una storia diversa. Sì, però ma sai, secondo me non si possono paragonare le due stagioni. No, le coppe sono appunto una storia di questo tipo. Cioè, se Evra spazza quel pallone, se Müller segna quel rigore, cioè, è tutto legato a singoli episodi, a singoli momenti. Allora, Giorgio De Luca prima mi ha disegnato un epilogo clamoroso per la Champions League. Il City questa sera elimina il Real Madrid, va a giocarsi la finale con l'Atletico e Pellegrini, già esonerato da tempo, immemore dal Manchester City, che ha fallito pure in campionato, vince la Coppa e consegna la squadra a Guardiola. Così, per la seconda volta consecutiva, era già successo con il Bayern di Monaco, con Heynckes, che aveva fatto triplete e poi ha detto adesso sono fatti tuoi. E potrebbe ripetersi la stessa storia. Allenatori precari che vincono la Coppa, Heynckes, ci metterei anche Di Matteo, e magari l'ingegner Pellegrini, che poi potrebbe andare da campione d'Europa ad allenare il Milan. Questo non ci credo. Voce che gira. Bah, beh, lui già ieri ha detto: in Italia prima o poi allenerò. Sì. Ed essendo in scadenza di contratto, sapendo già che non resterà al Manchester, è un po' più attuale come frase rispetto ad esempio al prima o poi allenerò in Italia all'Inter di Simeone. Gianpiero Timossi, buongiorno. Buongiorno. Ti piace questo scenario? Un po' surreale. Sì, sono un po'... concordo con te, ma vedo difficile Pellegrini sulla panchina del Milan. Sì. Vedo difficile qualsiasi cosa del Milan in questo momento. Però... sì, no, infatti, secondo me, prima devi decidere che cosa succede in società e poi puoi capire chi sarà l'allenatore, chi lo sceglie, chi sarà l'allenatore, quali saranno i giocatori. Adesso, secondo me, è un po' tutto fumoso. Siamo comunque abbiamo fatto sentire un sacco di canzoni tra il comandante Che Guevara e gli Intillimani, perché è la rivolta dei peones, no? Dal ciolo e dal ciolismo a Ranieri e al ranierismo. Mi racconti il tuo anno di SMS con Claudio Ranieri? Sì, beh, ma io ho sempre avuto un rapporto di grande stima con Ranieri, che è nato da un episodio che secondo me è stato un episodio fondamentale nell'ultima parte della sua carriera. A un certo punto la Juventus decide che non è più il momento di avere Ranieri in panchina, e quindi qualcuno lo ricorderà, c'è questo incontro tra Blanc e Lippi, quello che io ribattezzai il faccia a faccia della focaccia, dove praticamente si diceva, insomma, Ranieri alle ore contate. Scrissi questo pezzo sulla Gazzetta dello Sport, non avvertì Ranieri, perché non avverto mai nessuno, e il giorno dopo Ranieri lo incontrai a Vinovo e non si arrabbiò, anzi, in qualche modo ringraziò per averlo informato di quanto stavano facendo un po' alle sue spalle. E trovai questo atteggiamento dopo tanti anni era abbastanza singolare, che di solito gli allenatori di uomini di calcio si arrabbiano per qualsiasi cosa, sono sempre molto permalosi, non che Ranieri non sia permaloso come tutti, come me, però insomma dimostrato grandissimo intelligenza, e quindi è nata un rapporto anche, vorrei dire, in parte di amicizia, e quest'estate io comincio del lavoro da qualche tempo alla Luis Marte di giornalismo, e Claudio mi venne a trovare, parlavamo di diverse cose, parlavamo anche del fatto che non riusciva a trovare una squadra, e questo mi sembrava assurdo. Soltanto il Cagliari, l'abbiamo detto, soltanto il Cagliari in Serie B voleva puntare su Ranieri, ricordando soprattutto il fatto che Ranieri aveva portato il Cagliari dalla C alla Serie A. Sì, sì. E quindi ci siamo, incontrò il presidente, poi puntò quasi miracolosamente l'estero, visto che ci potevamo vedere meno, ci siamo scritti diverse volte. Io credo che Ranieri abbia avuto due momenti chiave nell'analisi della sua stagione. Il primo, dopo la sconfitta contro l'Arsenal, quando disse: guarda, abbiamo perso anche male, ma abbiamo giocato alla grande, io non so dove potrà arrivare questa squadra, ma è una squadra imprevedibile, una squadra così non l'ho mai avuta, è imprevedibile e può arrivare molto lontano. E poi credo che dopo il pareggio contro il Manchester, poi per molte settimane fu un po' preoccupato, scettico, ovviamente scaramantico, e poi dopo la vittoria, dopo il pari contro il Manchester, al di là di quello che sarebbe stato poi il risultato della sfida tra Chelsea e Tottenham, ecco, in quel momento lì lui davvero ha capito che quel punto, arrivato in quel modo, senza Vardy, comunque tra mille difficoltà, era un punto decisivo. Sì. Ora però non ci sentiamo qui perché, come sapete, ho 800 messaggi, quindi sì, a molte persone e molti nemici diventati improvvisamente certo, grandi amici. Come normalmente succede. È il lavoro per rinforzare il carro. Esatto. Però posso chiederti, visto che tu hai questo rapporto di stima reciproca, una delle tante cose che è stata scritta in questi giorni, in queste ore, viene ancora scritta e detta, è che Ranieri sia stato un allenatore sottovalutato nella sua carriera. Allora, io non so se questo sia vero, perché in fondo a Ranieri, ad esempio, il calcio italiano, e oggi tutti dicono il calcio italiano l'ha dimenticato, l'ha fatto andare via, l'ha sottovalutato, ha comunque consegnato le panchine dell'Inter, della Juventus, della Roma, del Napoli, della Fiorentina, ha comunque avuto la panchina del Chelsea, ha comunque avuto la panchina dell'Atletico Madrid, del Valencia. Io non so se sia stato sottovalutato Ranieri nel corso della sua carriera. Sono d'accordo con te. Non credo che Ranieri sia stato sottovalutato. Credo che a volte manchi un po', ma a me manca spessissimo, sono tanti anni che manca un po' la capacità, anche per mille motivi, non lo so, di analizzare quella che è la realtà delle cose, di fare un po' quello che io ho iniziato a fare 5 anni fa, cioè il cronista, leggere le cose e raccontare le cose che vedi, no? E quindi è vero, alleni la Juventus, ma devi ricordare che alleni una Juventus che arriva, torna in Serie A dopo il ciclone Calciopoli, che quindi è una squadra tutta da ricostruire. È vero, alleni il Chelsea, ma alleni il Chelsea in un momento particolare, prendi il Monaco in Serie B, prendi la Grecia, che è una nazionale che perde e viene esonerato perché perdi con le Isole Faroe, ma l'allenatore che ti sostituisce perde comunque contro le Isole Faroe, no? Quindi Ranieri si era in qualche modo appiccicato, questo è il tentativo di cercare delle scorciatoie. Credo che qualcuno avesse appiccicato addosso a Ranieri almeno due definizioni. La prima è che è l'eterno secondo, bravo ma non bravissimo, comunque un perdente di successo. E la seconda, secondo me ancora peggiore, è quella che al secondo anno Ranieri non fa mai bene, quindi che lo devi esonerare perché no, questa seconda definizione spesso nasconde l'incapacità di alcune società di gestire un programma che sia a un anno, ma a 2 o 3 anni. Ecco. Sì, ma lui ha già detto, con grande realismo, l'anno prossimo l'obiettivo dell'Leicester è arrivare tra le prime 10 in Premier League, che era l'obiettivo di quest'anno. Quest'anno è andata così, però si torna a ragionare con grande realismo, se è vero, su quel tipo di progetto. Sì, dipende chi verrà ceduto, e pare nessuno, dipende quanti giocatori arriveranno, e pare, sembra 3, uno per reparto, ma di grande livello, quindi poi dipende. Insomma, comunque Leicester ha anche scoperto, anche grazie a lei, ma non solo a Ranieri, dei grandi giocatori, ma è sicuro. Quindi non è soltanto merito di Ranieri questo... Assolutamente no, se no non sarebbero sul tetto d'Inghilterra. Grazie Giampiero, alla prossima. Ti abbraccio. Grazie a voi ragazzi, ciao. Buona giornata. Ciao. Anesti, Udine, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione. A lei. Allora, io vorrei dire che noto nella vostra intelligentissima trasmissione una forma di pregiudizio antitedesco. Diciamo che è un po', io non sono italiano, vivo qua da anni e cerco di avere un occhio, diciamo, esterno alle faccende, no? E intanto sulla Bundesliga, che secondo me è molto sottostimata, voglio dire, il Bayern non è che abbia una passeggiata, perché il Bayern è fortissimo e quindi sicuramente è molto avvantaggiato in Bundesliga, però come la Juventus in Italia, d'altronde poi il Bayern si gioca la Bundesliga con un Borussia Dortmund che 2 o 3 anni prima si è trovato in finale di Champions, oppure la quarta della Bundesliga elimina la terza della Serie A nei preliminari di Champions. Stiamo facendo un discorso di questo tipo, non c'è dubbio sul fatto che già all'inizio della stagione che il Bayern Monaco vincerà la Bundesliga e ci sono pochissime eccezioni alla regola. Non c'è dubbio in questi anni sul fatto che il Paris Saint-Germain vincerà il campionato francese, perché sono squadre realisticamente troppo forti per quel bacino. E soprattutto non c'è dubbio che Guardiola sia stato portato a Monaco non per vincere la Bundesliga, perché per vincere la Bundesliga potevano scegliere un altro allenatore, ma l'obiettivo dichiarato di questi club è appunto la Coppa delle Grandi Orecchie. Non c'è discussione, quindi non c'è nessun pregiudizio antitedesco o antifrancese, mi sembra soltanto la realtà dei fatti, una realtà dei fatti che stiamo misurando anche nel campionato italiano, eh. Questa è cronaca. C'è il mio amico Andrea Schianchi che ha scritto un bel libro. Ciao Andrea. Ciao, come stai? No, non l'ho scritto, l'ho curato. Bene, l'hai curato, bene, naturalmente, perché l'ha scritto qualcun altro. Si intitola Indro al Giro. Esatto. L'ha scritto uno un po' più grande di me, di te e di noi tutti, che si chiama Indro Montanelli. Sì, cosa troviamo in questo libro? Guarda, questo libro io ho trovato, recuperato le cronache del Giro d'Italia che lui fece nel 1947 e nel 1948. Lui seguì il Giro in questi due anni e per il Corriere della Sera, giusto? Per il Corriere della Sera, esattamente. Lui in quel periodo non si occupava di politica, si veniva dalla Seconda Guerra Mondiale, era stato epurato, questo non va dimenticato, per le precedenti compromissioni con il fascismo, senza poi ricordare che lui era stato in realtà condannato a morte dai nazisti e scappò dal carcere di San Vittore in Svizzera per salvarsi la pelle, però ugualmente fu epurato, fu emarginato inizialmente nella critica cinematografica e nel 1947 lui seguì il suo primo Giro d'Italia, non contento di questo, ma perché proprio amava il ciclismo, perché lui è una storia bellissima, quella della sua infanzia, quando incontra Girardengo, eccetera. Lui segue anche nel 1947 addirittura il Giro di Svizzera e nel 1948 risegue il Giro d'Italia, e sono cronache che sono veramente, secondo me, insomma, meravigliose, perché ci danno, a parte uno spaccato del ciclismo e di quei giri che magari a noi possono piacere come appassionati, però ci danno uno spaccato dell'Italia del dopoguerra che raramente si può trovare. Domani in edicola, giovedì 5 maggio, alla vigilia di questo Giro d'Italia che tu vedi come, tra l'altro io e Andrea Schianchi ci siamo conosciuti, siamo diventati amici a una lontana edizione del Giro d'Italia. Esatto. Guarda, io non so dirti chi siano i favoriti, non so dirti chi lo possa vincere, perché il Giro d'Italia obiettivamente è sempre una corsa piuttosto strana. Quest'anno partirà dall'Olanda, starà tre giorni in Olanda, poi dopo arriverà in Italia, soprattutto nel sud, e ripartirà, diciamo così, dal sud. Io credo che comunque sarà una corsa estremamente appassionante e credo, questo lo dico perché sento spesso in giro dire ma il ciclismo non è più quello di una volta, non è più così appassionante, eccetera. Bene, io vi invito ad andare sulle strade, soprattutto nei weekend, quindi sabato e la domenica, a vedere quanta gente c'è sulle strade. E quando uno ha visto tutta la gente che c'è sulle strade del Giro d'Italia, così come c'era anche nel 47 e nel 48 quando lo seguiva Montanelli, ed erano tempi in cui si faceva la fame addirittura, ecco, probabilmente la gente capisce che cosa sia veramente il senso e lo spirito dello sport, indipendentemente da quello che poi dopo c'è dietro, indipendentemente da quello che accade, da quello che succede. Andrea, grazie, ti abbraccio. Grazie a te. Ciao, prestissimo. Ciao, un abbraccio. Ciao. Dobbiamo chiudere, Giovanni, un peccato che siamo andati avanti ancora a parlare di ciolismo, guardiolismo e queste cose. E tanto domani sappiamo chi è l'altra finalista. Chi è secondo te? Credo Real. Credi Real, quindi derby. Riedizione della finale di Lisbona. Derby spagnolo a Milano. Intanto, vabbè, ma questa ve la racconto domani, che il Milan ha già prenotato le amichevoli estive e i tifosi hanno detto ma come? Allora Europa League un'altra volta? Vabbè, altra storia, altro giro, altro regalo, domani. Grazie Giovanni Capuano, Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Ciao! Guaglio!